Vedi, questo è il dramma di Facebook, perché poi tu vai su una pagina di una ragazza, così, e quindi abbiamo... sei già innamorato, sì, solo perché lei su Facebook si è messa la foto un po' civettuola, e quindi tu già credi che sia solo per te, invece è per l'umanità. E parti svantaggiato se sei innamorato così. E poi io schippi, c'è la foto del padre, e dici no, madonna, via. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa. E un saluto da Drago. Ciao Drago. Ciao. No, oggi è la festa della liberazione. Bella festa. Liberiamoci da tutti i nostri scrupoli. Quindi liberiamoci dai nostri ingombri. Prenderci a botte. No, tutti quanti, purtroppo così. Perché no, dobbiamo lavorare perché è la festa della liberazione. Ma l'asilo Stoppani è inopinatamente aperto. Oh, hai detto la parola giusta, inopinatamente. Se non sapete cosa vuol dire, andate sul vocabolario a cercare inopinatamente. E troverete scritto che oggi è mercoledì, ma è come se fosse domenica. Beh, sì. Insomma, i bambini cosa ragionerebbero così. Insomma, domani sarebbe lunedì, no? Ma per miracolo è giovedì. Quindi cioè, capisci che la vita è meravigliosa, Drago. Perché puoi andare avanti all'infinito a speculare sul giovedì, che è come se fosse lunedì, eccetera, eccetera. Che no? Vacci piano con le speculazioni, che poi ma non ci si non mi ama più ultimamente. Più niente, non lo so, ci si perde. Allora, ma vuoi diventare il nuovo volto di Wunderwaffer? Sì, no, sì, sì. Come si fa? Come si fa? Devi inviare il coupon che trovi dentro le confezioni di Wunderwaffer Classic, Wunderball e Wunderwaffer Extra. Con 80 prove d'acquisto potrai essere scelto come nuovo volto Wunderwaffer ed essere il nuovo protagonista del nuovo spot radiofonico Wunderwaffer. Radiofonico? Ma ti fanno cantare il jingle? No, devi sorridere tutto il tempo. Ma alla radio? Questo è molto divertente. Wunderwaffer. Ah, ein Stadtmensch. Sì, glauben wohl auch, dass wir hier oben etwas altmodisch sind. Wunderbar. Aber das stimmt nicht. Wir haben das frisch erfunden. Da ist Minze drin, in einer knackigen Füllung. Und zarter Schokibund. Wunderbar, wunderbar. Aber Vorsicht. Wunderbar. Ist cool, Ben. Aber Vorsicht. Ist cool, Ben. Wunderwaffer, Wunderwaffer, Wunderwaffer, Wunderwaffer, Wunderwaffer, Wunderwaffer, Wunderwaffer, Wunderwaffer. E ora bambini, ricreazione. Beh, guaglio, ma che faccia lunga che tieni. Beh, ma che, lunga chi? Lunga cosa, la mia faccia? Fidati a me, tieni la faccia appesa, lunga. Ma no, lunga, questa è la mia faccia. Io non ho mai avuto una faccia lunga, ce l'ho, più che altro ce l'ho rotonda, no? Senti a me, tu tieni un problema. Ma quale problema? Ma non vedi, qui è tutto ok, cioè. Ma che cosa, la smetti di starmi con l'alito dietro le orecchie? Allora mi dai fastidio, no? Ma quanto sei perbaloso. Io lo dico per te, ti devi fidare, Albe. Ma fidare di che cosa e di chi? Albe, te lo dico io che tieni un problema, si vede. Lasciati andare, confidati, no. Tieni una faccia troppo appesa, troppo lunga, che succede? Allora, io ti capisco. C'è una specie di afflizione, no? Un'afflizione, sono afflitto dal senso di colpa. Ecco perché tieni sta faccia, Albe. Ancora con sta storia della faccia lunga, ma basta. Ma e certo poi... E poi il senso di colpa non è che allunga la faccia, è una cosa interiore, no? Ho capito. Solo che se ti confidi, ti ritorna la tua bella faccia. Che ti hanno fatto? Che ti è successo? Dimmelo. Signores, dimmelo. Sarebbero anche faccende private, non è che io posso spifferare al primo che capita. Cioè, uno viene e io mi confido. Ho capito, ma che fa? Mi offendi? Io non sono tuo amico. Io mica sono il primo che passa. Guarda, sto fermo da mezz'ora, mica sto passando, Che ti è successo? Allora, cioè, niente, cioè... È per via di mia madre il problema, no? Umarona mia. C'è nel senso di colpo per via... mammut. Sì, cioè... Cioè, io avevo sete, no? C'è stato, l'altro giorno avevo sete, però avevo anche fame, no? Allora ho detto a mia mamma, ho sete! E lei mi dice, ciao, prendila. No, però avrei anche fame, no? Capito? Cioè... È tutto qua. Mo, non ho capito, se uno tiene fame e tiene sete, si deve sentire in colpa. Ma no, è che... cioè, tu non capisci niente, cioè, non l'ho mica finito, no? Se non ti spieghi bene, come faccio ad aiutarti? Se non ti spieghi, scusa. Ho capito, ma se mi stai... se mi assili, se mi aliti continuamente sul collo, ma stai un po' lontano, no? Ho capito. Mi lasci spiegare? Allora, apriti un po', apriti! Allora. Confidati un pochino! Allora, confidati, spiegati, fammi capire! No, qui sta diventando aggressivo, allora, cosa c'entra? Stai un po' lontano, a me il contatto fisico non è che piace... Allora, a mia mamma gli ho detto, ho fame, no? Però anche sete, capisci? Ma non avevi detto che avevi sete, ma anche fame? Ma allora vedi che sei proprio scemo. Cioè, è uguale, no? Cioè, cambiando l'ordine, non cambia, no? Capisci? Mia mamma mi fa, no? Devi bere una tazza di latte. Furba tua mamma, vabbè. E allora? Furba, vabbè, comunque ho detto, mamma, però il latte me lo scaldi un po', eh? Quindi lei fa, ok, dai, adesso prendo il pentolino del latte che sta nella credenza, tu intanto prendi il latte nel frigo. Il pentolino, tutto qua, per questo tiene tutta sta faccia. Ancora, cioè, posso dirti io, quando è finita, ti dico è finita e fai il commento. Allora, quindi io sono andato ad aprire il frigo, no, per prendere il latte. E ho sentito una botta tremenda, secca, no? Quindi mi sono girato e era la mamma. E che la mamma ha sbattuto la testa contro uno spigolo, no? Nella credenza, perché si era arrampicata. Perché i pentolini li tiene altissimi ed ogni volta li prende la scaletta. Li usa tutte le mattine, però ogni volta sale sulla scala. E quindi si è anche ferita, no? All'arcata sopraccigliare. No! Sì. Si è fatta male! E tu che hai fatto? Io ho bevuto il latte freddo, no? Scusa, il senso di colpa! E quello mi è passato, no? Cioè, dopo il latte freddo, il senso di colpa... Ma allora non stiamo parlando per niente! Lo dice a me. Vai, lo chiedi a Giacomo D'Alia... E gli dici, allora, sta roba qua che abbiamo, cioè, che è scritto? Quindi? Chi è? Chi? Giacomo D'Alia? Lo chiede a me. E ora, bambini, il sonnellino. Pink Floyd. Ma vabbè, cosa c'è? Cosa c'è che non va con i Pink Floyd? Adesso capisco, Justin Bieber, Pink Floyd. 40 anni... che vengono usati i Pink Floyd per creare l'atmosfera, così genere. Solo loro, no? C'è anche vecchia Romagna etichettata. Esatto, loro sono come un brand da supermercato, i Pink Floyd, così creano. Sì, però comunque l'atmosfera la creano sempre, comunque, anche dopo 40 anni. Sì. Però qui noi dovremmo dormire, l'atmosfera non la creano, la distruggono. Ma la migliore atmosfera per dormire è il silenzio. Ma non è vero, ci sono musiche che conciliano il sonno, i raggi delta, le onde gamma. Vabbè, a me la musica e i raggi mi mettono agitazione, quindi. Vabbè, ma anche se sono tranquille, le musiche, i raggi, tutto tranquillo. Anche se tranquillo tutto qua. Quando fai i raggi, no? Stia fermo, immobile. Sei tranquillo, sì, no? Ti tranquillizzo assolutamente. No? Comunque è d'atmosfera sta musica, sì, no? Ma dai, basta con questa atmosfera, che parola è? A proposito. Salute. Vabbè, ma cosa stiamo per vabbè, creare vabbè. Veramente l'atmosfera ci vuole il brandy. Vabbè. Vabbè, adesso diciamo che l'atmosfera per crollare a dormire è creata, Sì, in effetti. Peccato che suoni suona anche il telefono. Sì, sono quelle cose che non dovrebbero succedere. Pink Floyd, vecchia Romagna, telefonino. Sì, pronto? Romagna mia. I Pink Floyd che cantano Romagna mia. Ehi, tipo, ciao. Romagna of mine. Away from you. No, I cannot stay. Poi si fa un assolo di Gilmour. Ciao. Chi era? Era Rick, Rick Wright. Ma come? Il tastierista di Pink Floyd. Protestava per la cosa. Rick Wright? No. Anche Rick Wright è morto. Un saluto a tutti i partigiani, quelli che sono all'ascolto. Godetevi bene questa giornata di festa e ci risentiamo domani. Sì, ce ne sono ancora all'ascolto, cazzo, dai. All'ascolto? Sì, dai. Allora, a domani.